effetto. Qua cermo di metafore che esprimono un concetto. Assoluto e perfetto. Un colpo diretto assestato al sistema dal profondo del ghetto spirituale in cui voglio relegarci ad affogare in quel mare di capire in passato è solo di quella morale. Sì, falso opportunista che usa la censura come arma di difesa e sparavista su quanti, credimi non tanti, rifiutano ogni forma di controllo messo in atto dai potenti, dai signori che controllano l'opinione, da quelli che correggono le bozze del copione, chiamato informazione in scena tutti i giorni sugli schermi di un'intera nazione. Questo è il veleno che ci vogliono inoculare. Non esiste antidoto e la morte mentale. Opponi resistenza, non farti plagiare. Se non ti vuoi ridurre in uno stato terminale, nella stasi comatosi ti è incapace di pensare. Preferisce lamentarsi se qualcosa gli va male. Agire! E ciao, eccoci di nuovo tra noi. Voi siete su Radio Wombat all'1359 della modulazione di frequenza in onde medie e questo è lo spazio della stampa rassegnata. La stampa rassegnata è una piccola trasmissione che dalla fine del 2017, inizio del 2018 ci fa entrare un po' nelle cronache locali e gettare uno sguardo, speriamo sempre critico e radicale, su quello che avviene intorno a noi, con particolare riferimento alle vertenze popolari contro la costruzione dell'inceneritore di Firenze, Case Passerini per l'esattezza, e l'ampliamento dell'aeroporto di Peretola e la sua trasformazione in aeroporto intercontinentale. Chiedo ai nostri ascoltatori e ascoltatrici, che saluto caldamente, una piccola scusa. Ormai sono sempre più frequenti le mie scuse da questi microfoni perché ho saltato, per ragioni di organizzazione personale del tempo e degli impegni, la diretta di questo lunedì 29. Stiamo saltando direttamente, quindi se ci ascoltate e mi ascoltate ci state sentendo nelle repliche che girano, diciamo, nel nostro palinsesto, che sono del mercoledì alle 23:59 o del giovedì alle 8:30 di mattina. Altrimenti, come sempre, potete scaricare i podcast che trovate tranquillamente all'interno del sito di Radio Wombat, che a sua volta lo potete trovare senza alcun problema digitando Radio Wombat con la doppia V davanti su qualunque motore di ricerca. Il primo risultato siamo noi e i podcast ve li potete comodamente scaricare. Questi sono, diciamo, sono stati alcune parole ritualmente per rompere il ghiaccio, per salutarsi e per ritrovarsi settimanalmente ai nostri microfoni, per andare immediatamente a guardare alcune delle cose che sono successe nella settimana tra il 22 di ottobre e il 28, settimana che appunto riguarda, come sempre facciamo, con una settimana di ritardo andiamo sulle cronache e sugli avvenimenti. Sono successe diverse cose in questa settimana, anche per quanto riguarda, diciamo, le vicende, le vicissitudini, le vertenze e la vita dei movimenti in città. Non dimentichiamo l'uscita delle condanne agli antifascisti per la manifestazione contro Forza Nuova alle Piagge di alcuni anni fa, della quale non starò a parlare all'interno della stampa rassegnata, semplicemente perché verrà fatto, e in maniera più attenta e più opportuna, in altre trasmissioni che si sono dedicate, credo, per quello che sono riuscito a capire, diciamo, nei corridoi diffusi della nostra radio, anche attraverso delle dirette e delle interviste fatte durante il presidio che appunto si è tenuto questa settimana di fronte e davanti al tribunale in solidarietà con gli antifascisti. Chiaramente con questo, anche se un passaggio rapidissimo, va tutta la nostra solidarietà ai compagni e alle compagne che in quel delle Piagge si trovarono caricati dalla polizia italiana, accerchiati tra l'altro in una situazione non facile anche da un punto di vista dell'uscita e del disimpegno dello scontro di piazza, e che poi si sono ritrovati a distanza di anni nelle aule di tribunale, stanno rischiando condanne abbastanza serie che vanno intorno a un anno. Siamo al primo grado del processo e ripetiamo, va tutta la nostra solidarietà in un momento, in una fase storica in cui non meno di prima c'è e ci sarà bisogno di una risposta antifascista di fronte alla avanzata, alla crescita, allo sdoganamento e ai tentativi di radicamento sociale delle organizzazioni della destra identitaria o non conforme o la fascisteria varia, che sempre quella è. E per l'appunto proprio una risposta a un tentativo di radicamento sociale fatto da Forza Nuova fu la manifestazione delle Piagge di allora, che anche se complicata da un andamento non semplice, come dicevo, della manifestazione stessa, complicata appunto dallo scontro con la polizia e da rapporti non facili con alcune componenti del quartiere, però fu una risposta del tutto legittima da parte dei movimenti che in un momento di notevole unità risposero a quel tentativo di radicamento della destra. Vado quindi su un altro fatto, un fatto di cronaca. Come sapete, spesso dalle notizie di cronaca, non tanto per entrare nel feticismo, anzi mai per cedere al feticismo o al sensazionalismo con cui a volte la stampa commenta certi fatti, vorrei però dedicare un po' di attenzione, o piuttosto utilizzare questo avvenimento di cronaca per dare spazio a una vicenda di cui si parla, credo, assolutamente troppo poco, e che è il rapporto tra litigiosità sociale e armamento. E armamento, perché sto parlando di quello che è successo, o meglio, che riporto direttamente da un articolo di cronaca locale, dalla Repubblica del 23 di ottobre. Dopo l'assassinio, solo poche parole, non poteva andare avanti così. Duplice omicidio a Sesto. Barna, che è il nome dell'autore di questo duplice omicidio, alterna frasi sconnesse e non ricordo, indagini sul porto d'armi e sulla mediazione chiesta al comune. L'articolo ci racconta più o meno quello che è stato l'arrivo delle forze dell'ordine e anche dei media sulla scena del delitto, perché in via del Grillo o dei Grilli, non ricordo e ora non la sto trovando immediatamente sull'articolo di cronaca, ma non importa, siamo nella zona di Quinto Alto, verso le pendici diciamo del monte, sopra Villa Solaria. E è successo questo fatto di cronaca. In sostanza, una persona, una persona assolutamente adulta, questo Fabrizio Barna di 53 anni, che scocciato dalle ennesime discussioni e dai rumori provenienti dai lavori di ristrutturazione di una casa che era accanto alla sua, ha litigato per l'ennesima volta con due vicini e ha pensato di prendere il fucile e di sparargli. Ha fatto due morti, la cosa chiaramente suscita attenzione, suscita scalpore e clamore. Però non tanto per quello che potrebbe sembrare una facile diciamo incasellamento della questione all'interno di del disagio psichico, che indubbiamente quello che è successo è ascrivibile anche a evidenti segni di squilibrio psicologico, perché ci mancherebbe altro che le liti domestiche e le liti di vicinato si dovessero risolvere sempre e costantemente con il ricorso alle armi. Però, come dicevo, gettiamo uno sguardo inquietante su quella che è la realtà dell'armamento sociale in Italia, cosa che non facciamo solo noi, perché già in un articoletto, in una spallettina del Corriere di Firenze, già Giulio Gori, che cogliamo l'occasione per salutare, vecchio compagno del collettivo di Scienze Politiche, da anni ormai collaboratore delle cronache del Corriere Fiorentino, mette in evidenza questo, appunto, la facilità con cui persone con assetti psicologici e psichici probabilmente anche discutibili sono in grado di prendersi in casa delle armi attraverso il porto d'armi sportivo. Infatti Giulio Gori ci dice: quegli assassini con il porto d'arma per uso sportivo, e ci ricorda che negli ultimi 4 anni nel solo territorio fiorentino sono ben 3 i casi di porto d'arma sportivo che trasformano una pistola da tiro a segno in un'arma mortale. Ci ricorda che il 9 agosto 2014 Vito Tronnolone di Lastrasigna fece strage di tutta la famiglia durante una vacanza in Basilicata. Il 5 marzo scorso invece Roberto Pirrone uccise il senegalese Idiene sul ponte Vespucci in un omicidio, in un assassinio molto discusso che ci ha fatto parlare, ne abbiamo parlato molte volte anche da questi microfoni, proprio perché a sfondo razziale, al quale seguirono le manifestazioni più che sacrosante e legittime sia degli altri connazionali di Idi, sia della risposta di tutta la città di fronte anche alle oltraggiose dichiarazioni a caldo di Nardella, che anteponeva il decoro e la salubrità delle fioriere prese, diciamo, a calci dai senegalesi, le anteponeva alla vita di Idi. Domenica mattina, Sesto Fiorentino, continua l'articolo ovviamente, è stata la volta di Fabrizio Barna, che ha freddato i vicini di casa, Simone Andronico e suo padre Salvatore. Ogni volta ad uccidere una pistola, concessa con porto d'arma sportiva, ci si interroga sulle forse eccessive facilità con cui questi permessi vengono rilasciati. Per un porto d'arma sportivo non interviene neppure uno psicologo a valutare l'idoneità del richiedente. Il primo passo è il certificato del medico di famiglia, che deve dichiarare che il soggetto è fisicamente idoneo e mentalmente stabile. Poi c'è la seconda visita con un medico legale, non necessariamente esperto di psiche, dell'ASL o convenzionato a pagamento, che in genere appena un quarto d'ora fa un breve colloquio e alcuni test di carattere fisico. A quel punto si va in questura, dove si verifica che non ci siano precedenti nella fedina penale. Si fissa la prova attitudinale in un centro di tiro a segno. Una volta superata la prova pratica, il porto d'armi sportivo ha la validità per 6 anni e dà la possibilità di detenere fino a 6 anni. Di fatto l'idoneità mentale di chi chiede la pistola viene certificata dal medico di fiducia e da una brevissima successiva visita. Inoltre, 6 anni di validità non tengono conto di eventuali depressioni o problemi psichici che possono sopraggiungere nell'arco di un periodo di tempo così lungo. Nel caso di Fabrizio Barna, il suo porto d'armi sportivo era stato rilasciato nel 2012 e proprio alla fine di quest'anno avrebbe dovuto affrontare la trafila per il rinnovo. Questo era l'articolo di Giulio Gori, che mette giustamente in evidenza la eccessiva facilità con cui si può conseguire un porto d'armi, ma vi garantisco che purtroppo la situazione le difficoltà e lo scenario non finisce qui. Ben peggiore è quello che ci aspetta e quello che ci sta riservando il futuro, anche perché veramente questo pochi lo sanno, e credo che utilizzare lo spazio della nostra trasmissione per allargare il tema e gettare una voce fuori dal coro su questi temi sia assolutamente importante, perché queste sono le cose che ci toccano e ci permettono di andare oltre la crosta e la cortina fumogena dei paradigmi preconfezionati e precotti con cui i media ci fanno percepire e leggere la realtà sociale. La realtà sociale che ci viene raccontato è diciamo ormai una giungla nella quale è importante addirittura detenere delle armi in casa, perché siamo sempre più minacciati nelle nostre proprietà da masse sempre più impoverite, da stranieri che come fantasmi invisibili si appostano nel buio, nelle zone d'ombra della società, dei tempi e degli spazi delle nostre aree metropolitane sempre più dominate dalle ansie, e alle quali noi dobbiamo rispondere, come ci insegnavano i padri pellegrini che hanno dato vita alla nazione, agli Stati Uniti, anche attraverso l'uso delle armi da fuoco che si vanno diffondendo proprio sul modello americano. Ce ne parla Giorgio Beretta in un'intervista che ha rilasciato alla Radio Rossa, a Radio Onda Rossa, che io ho ascoltato, tagliato e ricucito per voi nelle parti che a me sembravano più salienti, ma che vi invito assolutamente a sentire tutta, comprese gli interventi dei redattori che hanno tenuto la trasmissione, che hanno dialogato con Giorgio Beretta della rete Disarmo di Radio Onda Rossa durante l'intervista. Io ho tagliato qua e là, in alcuni punti si sentono le loro voci perché non erano tagliabili e non si potevano appunto eliminare più di così, però ve la passo com'era. Che è successo? Che già venerdì 14 settembre l'Italia diventa meno restrittiva per quanto riguarda la normativa sulle armi, e infatti l'Italia cosa ha fatto? Ha recepito il decreto legislativo, o meglio, ha recepito la direttiva europea 853 del 2017 attraverso il decreto legislativo 104 del 10 d'agosto, che modifica per l'appunto la precedente normativa europea in materia di armi, che risaliva al 91. Quindi da oggi è meno restrittiva la normativa sul possesso delle armi legalmente detenute. E niente, non la faccio più lunga di così, lascio la parola a questa intervista che, vi ripeto, ho tagliato e cucito, che dice delle cose molto interessanti e dice anche che lo schema, o meglio, che la realtà nella quale ci troviamo è sempre più complessa di quello che sembra, perché se è vero che Salvini sta facendo da portaborse e da amministratore delegato anche delle, oltre che di grandi multinazionali che conosciamo, anche di quelle delle armi da fuoco operanti in Italia, sappiamo anche che il centro-sinistra non è stato da meno, non è da meno dove ancora detiene le redini del potere, e che quindi i soldi e le prebende offerte da i produttori di armi fanno gola un po' a tutti e quindi la palla passa sempre ai cittadini e agli abitanti. L'unico antidoto alla trasformazione delle nostre società in un carnaio, in un macello, più di quanto già non sia. A Giorgio Beretta la parola e poi ritorneremo sui nostri microfoni. Il che vuol dire che praticamente il numero di cosiddette armi sportive, armi sportive non vuol dire che sono usate solo per lo sport, tra queste armi sportive ci sono i fucili semiautomatici AR-15, quelli che sono usati nelle stragi in America, tanto per capirci. Benissimo, queste cosiddette armi sportive che possono detenere tutti coloro che hanno una licenza di tiro sportivo passano da 6 a 12. Quindi raddoppiano sostanzialmente. I caricatori consentiti per le armi corte passano da 15 a 20 colpi e per le armi lunghe passano, quindi per questi anche i fucili semiautomatici, passano i caricatori da 5 a 10, quindi raddoppiano. Faccio notare, perché parlando di questi numeri uno capisce ben poco, che la strage di Parkland, quella in cui il ragazzo ha sparato appunto agli altri ragazzi nel liceo, è stata fatta da questo giovane appunto con un'arma AR-15 con caricatori da 10, perché quelli da 30 non gli stavano nello zainetto. Quindi vuol dire che praticamente oggi si stanno armando gli italiani nella stessa maniera con cui si sta armando negli Stati Uniti, né più né meno. Questo mi si dirà, ma è consentito dalla normativa europea? Sì, è consentito. Ma perché è stato consentito? Perché la normativa europea, che era nata appunto per limitare il numero di armi, le tipologie di armi che potrebbero essere permesse in Europa dopo i fatti del Bataclan e dopo i fatti di Charlie Hebdo, dove alcune armi di tipo automatico erano state ridotte a tipo demilitarizzato, quindi semiautomatiche, in questo modo erano passate nel mercato comune, legale, e in questo modo poi sono passate nel mercato illegale e sono arrivate appunto agli attentatori islamisti del Bataclan. Benissimo, queste armi che dovevano essere limitate per una fortissima pressione di questa lobby armiera, di cui fa parte appunto la lobby con cui il gruppo con cui Salvini ha firmato questo patto d'onore, che ha messo una campagna di tipo terroristico, non ho altra parola per definirla, no? A livello europeo, dicendo l'Unione Europea vuole mettere al bando tutte le armi, vuole limitare i nostri diritti di sportivi, vuole mettere al bando le armi per la difesa personale. Questi erano gli slogan che sono stati usati, con una campagna di pressione fortissima proprio di questi gruppi. La direttiva europea ne è uscita molto blanda, di fatto appunto permette tuttora il possesso di armi demilitarizzate, tra cui ci sono appunto gli AK-47, i Kalashnikov, tanto per capirci, non quelli di tipo automatico ma di quelli semiautomatico, quindi che non sparano a raffica, ma quindi li permette tutti. E quindi di fatto questo tipo di direttiva è stata recepita nel modo più estensivo possibile da questo governo. Bang, bang, io sparo a te, bang, bang, tu spari a me, bang, bang. Noi non sappiamo, non c'è nessun dato in Italia, questo è quello a cui tu stavi accennando, non sappiamo quanti siano di fatto i legali detentori di armi, perché anche gli ultimi dati resi noti dal Ministero ci dicono che siamo intorno a un milione e 400.000 legali detentori di armi, ma mancano tutti quelli che detengono armi con il semplice nulla osta, cioè il modo più semplice per ottenere appunto un'arma in casa. Sappiamo quanti sono appunto i detentori di arma per uso caccia, che sono sempre in diminuzione, arriviamo a 738.000 circa, quelli per appunto di uso sportivo, che invece sono molto in crescita, siamo qualcosa come 584.000, e qui attenzione, perché abbiamo 584.000 persone che hanno questa licenza di uso sportivo, le federazioni del CONI riconosciute ci dicono che al massimo chi ha una tessera appunto di partecipazione a associazioni di tipo sportivo sono al massimo 120.000 persone, Quindi abbiamo qualcosa come più di 400.000 persone che prendono questa licenza di tiro sportivo non perché hanno un'intenzione di fare, di andare ai campionati olimpici o perché hanno intenzione di fare tiro sportivo, ma perché questo gli permette molto facilmente, come dicevo prima, di tenere tre armi comuni, che vuol dire tre pistole solitamente. Prima erano sei, adesso sono diventati 12 armi di tipo sportivo, che sono le stesse armi comuni ma molto letali, e numero illimitato di fucili da caccia. Quindi, essendo questa la licenza più facile da ottenere, moltissima gente appunto richiede questa licenza. L'altro dato di cui non si sa assolutamente nulla, e anche questo è un vero paradosso, è appunto quante armi ci sono nelle case degli italiani. Citavi la ricerca di Small Arms Survey, che davvero di diversi anni fa, è come se dicessimo 10 anni fa c'erano tante automobili in Italia, serve a niente, noi dovremmo sapere quante sono. I dati di cui parlano alcuni sindacati di polizia ci dicono che siamo attorno ai 12 milioni di armi nelle case degli italiani, e quindi questo credo che sia il dato più vicino alla realtà, considerando appunto che una persona può detenere più armi, questo è il punto importante, e soprattutto i cacciatori ne detengono più fucili da caccia. E il punto però è questo: noi siamo al paradosso che noi sappiamo ogni mese quanti televisori, quanti cellulari, quanti elettrodomestici vengono venduti in Italia, e per le armi, che tutte, come appena detto, devono essere, quando c'è l'acquisto, deve essere appunto comunicato all'ufficio di polizia, che può essere la questura, la prefettura o i carabinieri, deve essere comunicato l'acquisto dell'arma, non si sa, di fatto non c'è una cifra precisa di quante sono le armi regolarmente detenute dagli italiani. E dicevo, manco si sa quante sono tutte le licenze regolarmente detenute dagli italiani. Non è soltanto una questione, si badi bene, di numeri e di statistiche, perché questo è un dato molto importante se poi lo incrociassimo con un altro dato che è tuttora manca, che è quello degli omicidi e dei reati, ma omicidi e soprattutto tentati omicidi, compiuti con armi regolarmente detenute in Italia. Non c'è una cifra esatta, non c'è un rapporto. Non esiste un rapporto. Quello che noi vediamo è questo fatto, sul quale inviterei molto a riflettere, che oggi, e questi invece sono dati del Viminale, noi abbiamo circa nel 2016 omicidi, tutto compreso, che vuol dire omicidi fatti sia con armi regolarmente detenute, sia con armi, diciamo, di tipo armi bianche, eccetera eccetera. Per quanto riguarda gli omicidi familiari, ce ne sono stati, secondo gli ultimi dati del Viminale, una cinquantina nel 2016, sì. Abbiamo però 55, quindi poco più, omicidi fatti dalla criminalità organizzata, dico con tutti i tipi di armi. Ce ne sono, che aumenta, criminalità organizzata vuol dire praticamente dalle mafie, ce ne sono 144 fatti dalla criminalità comune, appunto criminalità, e ce ne sono però 82 fatti per lite o rissa. Ora, se noi sommiamo, e questi sono spesso interpersonali, che in Italia nel 2016 ci sono stati 15, ripeto, 15 omicidi per furto o rapina, a fronte di 46 omicidi familiari o passionali e a fronte di 82 omicidi per lite o rissa. Che cosa vuol dire questo? Vuol dire che se oggi c'è un ambito di preoccupazione e di emergenza, non sono gli omicidi per furti o rapine, che sono solo 15, sono l'ambito familiare, e quindi le armi tenute in casa, e l'ambito interpersonale. Lite o rissa vuol dire che il signore il cui vicino ha bruciato le sterpaglie durante l'estate, ha fatto fuoco e gli dava fastidio, quello se ne è uscito e gli ha sparato e l'ha ammazzato. Sì, quindi l'ambito di pericolosità in Italia oggi non è, e questo tocca la questione della legittima difesa, della modifica della legge sulla legittima difesa. Si dice: vogliamo modificare la legge sulla legittima difesa perché non ci assicura di essere alla persona che appunto viene offesa una garanzia a fronte del fatto che ci possano essere appunto delle violazioni di un domicilio. Si vuole cambiare questa legge, no? Introducendo il criterio di presunzione di innocenza, di presunzione di legittimità. Se una persona è entrata in casa mia e io gli sparo, va bene, sostanzialmente il concetto è questo, no? Entrate ovviamente con effrazione, eccetera eccetera. Quindi questo è il caso. Questo ovviamente porterà ad avere molte più armi in Italia, ma questi casi oggi al massimo sono una quindicina, mentre dicevo sono più di 140 i casi di omicidi familiari e interpersonali. Allora, l'ambito di pericolosità non sono le rapine e gli omicidi per rapina, l'ambito di pericolosità è l'ambito familiare e interpersonale. E questo è il vero problema del quale nessuno parla. Bang, bang, io sparo a te, bang, bang, tu spari a me, bang, bang. Sì, qui ci sono due domande che sono molto importanti. Innanzitutto questo comitato direttiva 477. E che cos'è questo comitato? Dal nome nasce appunto da questa direttiva europea che intendeva inizialmente, appunto dicevo, limitare l'uso delle armi in Europa, cosa che poi di fatto ha fatto ben poco. Ma chi sono? Quanti sono? Allora, il loro presidente, Magnani, dice che sono un migliaio, un qualche migliaio. Ora, stranissimo che un presidente di un'associazione non dia i numeri di quanti sono i suoi associati. Non sa neanche quanti. No, e questo è un fatto molto importante, perché facciamo pure due, tre migliaia di persone che siano associati, non credo che arrivino a 3.000, benissimo, a fronte, dicevo, di almeno 780.000 cacciatori e a fronte di 580.000 persone che hanno una licenza di tiro sportivo, rappresentano lo 0,002, ok? Quindi non rappresentano assolutamente nessuno. Servono però moltissimo per far passare un'idea che è un'idea anticostituzionale. Dico questo e me ne assumo la responsabilità. Che cosa vuol dire? Loro intendono far passare, lo scrivono, appunto l'idea che esistano dei diritti dei legali detentori di armi. Non ci sono questi diritti nella nostra Costituzione e non ci sono anche perché la Corte Costituzionale ha ripetutamente detto che il possesso di armi, la detenzione di armi, rappresenta una eccezionalità a fronte del, e deve essere, quindi la licenza viene data a fronte e valutando questioni di ordine e di sicurezza pubblica. Quindi non c'è nessun diritto, è una licenza. Attenzione bene, ma l'idea di far passare un diritto è questo, è l'idea appunto della National Rifle Association, cioè della lobby delle armi americane. Ed è con questo comitato, che ripeto, non rappresenta assolutamente nessuno, perché è un comitato che dice che ho 2.000 iscritti a fronte di 1.500.000 di detentori di armi, è lo 0, benissimo. Questo comitato invece serve moltissimo per fare quest'altra operazione che è stata fatta, quella cioè da parte appunto dei produttori di armi e dei rivenditori di armi, e cioè ANPAM, che è l'Associazione Nazionale dei Produttori di Armi, Assoarmieri, che è l'Associazione dei Rivenditori al Dettaglio delle Armi, e Confarmi, che è l'Associazione dei Produttori di Armi, diciamo, di repliche di armi antiche, degli armaioli per capirci. Questi dicono chiaramente in un documento pubblico: sostenete questo comitato, iscrivetevi a questo comitato direttiva 477. Ora è chiaro che Salvini non può firmare un contratto con la Beretta, non può firmare un contratto con l'ANPAM, ha bisogno di un comitato che gli faccia da intermediario, in modo che lui di fatto sostiene i diritti delle aziende, perché questo è il punto, però non firma il contratto con i diritti delle aziende, firma il contratto con questa associazione, Comitato Direttiva 477, che non rappresenta nessuno se non al massimo quei 2000 iscritti. È il modello americano in cui di fatto la NRA, che era nata come associazione, qui è un po' diverso, no? Che era nata come associazione appunto dei legali detentori di armi, perché poi lì però c'è un diritto costituzionale, dovremmo discutere su questo diritto, ma lasciamola pur perdere se non finiamo più. Insomma, è un emendamento al secondo emendamento, appunto. Bene, ma era nato come associazione appunto di cacciatori, di sportivi, eccetera, eccetera. Ad un certo punto la NRA è diventata di fatto l'associazione che, più che sostenere i cacciatori e gli sportivi, no, sostiene di fatto gli interessi delle aziende armiere, fa appunto da interfaccia tra il mondo politico e il mondo delle aziende armiere. Chiaramente in America, avendo questo tipo di emendamento, questo tipo di costituzione, c'è anche molta gente che si iscrive alla NRA perché poi ha un certo tipo di garanzie che gli salvaguardano, no? Legali, eccetera, eccetera. Ma la funzione è quella, fare da tramite tra il mondo politico e il mondo dei produttori di armi. Qui è la stessa, perché c'è la seconda parte della domanda. Salvini firmò quel patto appunto a Itch.io. Itch.io che cos'è? È l'unica fiera in Europa, anzi nei paesi dell'Unione Europea, lasciamo stare la Svizzera che non è ovviamente nell'Unione Europea, in cui sono presenti tutte le armi, tranne quelle di tipo militare, ma comprese quelle demilitarizzate, quindi armi da caccia, armi da tiro sportivo, armi da difesa personale, armi da soft air, repliche di armi antiche, armi demilitarizzate, armi da collezione, eccetera, eccetera, tutte le armi in cui è permesso l'accesso a tutti i civili, minori compresi, purché siano accompagnati. La fiera di Itch.io cerca di competere con la fiera IVA di Norimberga, ma IVA di Norimberga non è permesso l'accesso ai cacciatori, ai singoli, agli sportivi, è permesso l'accesso solo agli addetti ai lavori, cioè a rivenditori autorizzati. Tra l'altro a Itch.io sono state fatte negli anni scorsi raccolte di firme appunto per promuovere disegni di legge sulla legittima difesa, che uno si chiede, è come se alla fiera appunto delle automobili venisse fatta una raccolta di firme per limitare i limiti di velocità sulle autostrade. Uno direbbe, ma stiamo impazzendo? Ecco, cioè, cosa c'entrano? E questo invece succede. E secondo, vengono appunto proposte attività politiche come quella appunto di firmare impegni come quello promosso appunto da questo comitato e che Salvini ha firmato. Il vero paradosso qual è? È che questa fiera, appunto Itch.io, è di fatto organizzata da due enti. Uno è appunto IEG, Italian Exhibition Group, e il secondo è AMPAM, che è l'Associazione Nazionale dei Produttori di Armi e Munizioni. IEG è una, di fatto una SPA, i cui maggiori azionisti sono il Comune e la Provincia di Rimini e la Camera di Commercio di Rimini, e poi il Comune e la Provincia e la Camera di Commercio di Vicenza e la Regione Emilia-Romagna. Allora, Comune e Provincia di Rimini sono enti pubblici e Comune e Provincia di Vicenza sono enti pubblici. Tra l'altro fino all'ultima edizione, adesso Vicenza è cambiata la giunta, erano entrambi di centro-sinistra. Bang, bang, io sparo a te, bang, bang, tu spari a me, bang. Oggi è più facile ottenere una licenza per armi che prendere la patente di guida. Per prendere la patente di guida uno deve superare due esami e moltissimi italiani lo sbagliano, o quello di teoria o quello di pratica. E se poi uno acquista un'automobile, a parte il fatto che per i primi anni non ti è permesso di guidare automobili di una certa cilindrata, puoi guidare solo quelle di piccola cilindrata. C'è una facilità con cui ti tolgono la patente, che proprio... Sì, tra l'altro, test antidroga. Ma ulteriormente, se una persona ha un'automobile, è per legge, deve per legge avere un'assicurazione. Oggi per legge uno può avere armi e non ha necessità di nessuna assicurazione. Questo servirebbe moltissimo anche, anche per degli incidenti che spesso ci sono nelle case degli italiani, in cui una persona si spara mentre sta pulendo la pistola o addirittura ammazza qualcuno. Ecco, queste sono questioni che dovrebbero essere affrontate, io dico sempre, come se fossero appunto la patente di guida, con degli esami specifici, con dei controlli specifici, con dei controlli che vengono fatti così come sulle strade a caso, at random si dice, no? Sulle strade, lo stesso dovrebbero essere fatti nei controlli sui detentori di armi, siccome appunto uno dei problemi è quello appunto dell'uso di droghe, parlo di droghe pesanti, e di alcol, anche su questo bisognerebbe andare a avere degli esami tossicologici molto precisi, come quelli a cui sono tenuti a fare appunto le guardie giurate, e soprattutto che ci sia una assicurazione. Questi sono i punti importanti. Non limiteremmo le morti, ma sicuramente limiteremmo il numero di persone, no, che pensano di avere le armi facili. Dopodiché ci dobbiamo dire, signori, ma appunto una R15, un fucile semiautomatico, un Kalashnikov di tipo semiautomatico, serve per la difesa abitativa? No. Come mi si stringe il cuor, bang bang, rivedo. ancora in voce per andare verso la fine della nostra trasmissione. Se vi siete collegati adesso all'1359 in onde medie, siete su Radio Wombat, state ascoltando la Stampa Rassegnata. Stampa Rassegnata che va in onda il lunedì alle 15.30 in diretta, nelle repliche il mercoledì alle 23.59 o il giovedì alle 8.30, oppure scaricatevi il podcast e ascoltateci quando più vi pare e piace. Un aggiornamento lo vogliamo fare, o lo dobbiamo anche fare, praticamente da Peretola. A Peretola, la settimana scorsa, precisamente giovedì 25, si è tenuto un incontro che dal nostro punto di vista è stato abbastanza rilevante, perché all'SMS di Peretola ha sostanzialmente fatto il suo debutto pubblico il gruppo Facebook Viva la Nuova Pista. Questo gruppo, questo diciamo comitato, si è andato col tempo affiancando all'azione del comitato per il sì, che invece è stato fondato il 7 maggio al Palaffari nella kermesse che Confindustria, Camera di Commercio, Confcommercio, Toscana Aeroporti organizzarono per l'appunto per dare vita a questo comitato. Comitato che voleva, come sta continuando a fare, dare spazio organizzato a quelle che erano le pressioni da parte delle grosse categorie, dei grandi marchi e di grossi e grandi nomi dell'imprenditoria del territorio, che si concretizzarono in quella ormai famosa e significativa manifestazione che si tenne proprio di fronte all'ingresso dell'aeroporto di Firenze. Ricordiamo che un po' simbolicamente, un po' per tutti, il nome di Ferragamo che con il megafono in mano arringava a quella piccola e più immaginata che reale folla che si radunò lì davanti all'aeroporto. Dico folla immaginata perché mentre l'azione del comitato per il sì, mentre anche il gruppo Viva la Pista continuano a parlare di un'opera necessaria e sentita e desiderata e voluta o addirittura sognata da una grande massa di persone sparse sia nell'area metropolitana fiorentina quanto anche in Toscana, se non addirittura in Italia e nel mondo, di questo sì all'aeroporto si parla più di quanto non si veda. Si parla perché, per l'appunto, c'è un appello online che circola ormai da diversi mesi, precisamente da quel 7 maggio, appunto data del convegno al Palaffari di Firenze, in cui fu lanciato, e che sempre da quel palco e da quei microfoni il famoso Bassilichi, Leonardo Bassilichi, annunciava e preannunciava di arrivare alle 100.000 firme. Alle 100.000 firme non siamo neanche minimamente vicini, siamo intorno alle 4.500 firme in questi mesi di azione e attività, tenendo anche conto che è un appello che può essere firmato in rete da chiunque possegga una normale casella di posta email, che non chiede né documenti né estremi di identità, e quindi insomma lascia un po', per quanto ci riguarda, il tempo che trova, e servirà a fare fuffa e a far parlare di sé, ma non ha particolare rilievo. Non hanno particolare rilievo neanche i sondaggi più o meno online, più o meno telematici, che sono stati fatti in questo periodo, tenendo conto per esempio che uno fatto da Muoversi in Toscana, una pagina Facebook abbastanza frequentata e votato da circa 4.600-4.500 persone, ha dato un responso diciamo favorevole a noi, o meglio al fatto che il 61% di coloro che hanno risposto a questo appello dice di non volere l'ampliamento dell'aeroporto, e il 39% dice di sì. Ne è stato fatto e presentato proprio recentissimamente da Mario Razzanelli, di ormai di fatto rappresentante e voce di Forza Italia, quindi della destra imprenditoriale, manageriale fiorentina, sostenendo che appunto invece è stato fatto sondaggio tra i fiorentini è che su 800 persone sentite ci sarebbe un buon 60% di persone favorevoli all'apertura. Ma insomma, sono tutti nomi, e il tentativo fatto da i grossi nomi, insomma, di imprenditoria fiorentina, di darsi una base di massa attraverso dei comitati è un tentativo tuttora in corso, ma i cui risultati non sono certamente unanimi, come loro dicono. Detto questo, non possiamo ignorare, insomma, il fatto che un centinaio e più di persone si sono veramente recate all'assemblea di giovedì 25 all'SMS di Peretola, all'interno della quale questo comitato, insomma, faceva il suo primo debutto, parlando del master plan, sostenendo di dare delle spiegazioni, di dimostrare, dati alla mano, che il progetto di espansione, di trasformazione dell'aeroporto di Peretola in aeroporto intercontinentale è sostenibile da tutti i punti di vista, compreso quello ambientale, e che le ricadute che ci sarebbero sia in termini di inquinamento acustico sia in termini di inquinamento ambientale sarebbero ridotte e assolutamente non paragonabili a quelle della situazione attuale, determinata dai sorvoli da parte degli aeromobili che atterrano e decollano da Peretola, che portano, come sappiamo, disagi soprattutto in termini di inquinamento acustico nei quartieri di Brozzi, Peretola, Le Piagge e Quaracchi. Questo era l'intento di questa serata, che però si è trasformata, e secondo noi in modo non del tutto imprevedibile, ma anzi in parte prevedibile, in una kermesse elettorale. E quindi in uno dei tanti episodi della campagna elettorale del Partito Democratico nella città di Firenze, avvicinandosi le elezioni comunali del 2019, perché dietro il tavolo, allestito come se fosse davvero un comitato auto-organizzato, tavolo sul quale era stato attaccato lo striscione del gruppo Facebook Viva la Nuova Pista di Peretola, abbiamo visto come è stato immortalato in una foto che sta diventando già celebre, circolando in rete, abbiamo visto dei personaggi di rango, mettiamola così. Avevamo dietro il tavolo, avevamo Bettarini, assessore del comune di Firenze, ovviamente del PD, avevamo un esponente del quartiere, il Balli, avevamo Naldi di Toscana Aeroporti, avevamo un altro responsabile della comunicazione di Toscana Aeroporti, avevamo niente po' di meno che Eugenio Giani, che avevamo tempo addietro già pericolosamente visto a dare il là e a presentare l'inizio della campagna elettorale del sindaco di Campi Bisenzio, Emiliano Fossi, che è rimasto all'interno del Partito Democratico e che, nonostante abbia impugnato il ricorso al TAR insieme al sindaco di Sesto e agli altri sindaci della Piana che hanno fatto il ricorso al TAR contro l'esclusione dall'osservatorio ambientale voluta a tutti i costi dal sindaco Nardella per quanto riguarda ovviamente l'osservatorio ambientale legato al nuovo aeroporto, nonostante questo la sua campagna elettorale, quella del sindaco Emiliano Fossi di Campi, è stata aperta da Eugenio Giani, che appunto vediamo come uno dei forti protagonisti della vita politica del Partito Democratico fiorentino, schierato a favore dell'aeroporto di Firenze, o meglio, a favore della espansione dell'aeroporto. Questa è stata un po' la giornata, la serata di giovedì 25, e si è trasformata in questa kermesse elettorale che, come ripeto, non ci ha stupito, proprio perché il gruppo Viva la Pista, dobbiamo proprio dirlo, ci dispiace, anche se vede certamente e senza ombra di dubbio tra i suoi protagonisti, attori e animatori dei cittadini comuni, di fatto sono abitanti che hanno sposato pienamente il non solo il progetto di master plan, ma con esso anche il progetto politico che vede un ridisegno del territorio ai fini della costruzione di questa enorme infrastruttura, che non è solo infrastruttura legata al trasporto, ma appunto descrive di fatto, come spesso abbiamo detto, sarebbe un po' il pipeline, cioè l'oleodotto in grado di permettere una maggiore estrazione di quella che è la ricchezza principale del territorio fiorentino, che è legata al suo patrimonio artistico, culturale e storico. Quindi di fatto il ridisegno del territorio che questa trasformazione dell'aeroporto porterebbe con sé non è legato neanche solo alla risistemazione della pista, che non è solo ed esclusivamente la girare la pista. Questo è un po' il pensiero di Rossi, del furbesco Enrico Rossi, presidente della regione, che continua a distorcere le parole e a parlare di messa in sicurezza dell'aeroporto di Peretola attraverso lo spostamento della pista. Non si tratta solo di questo, perché il progetto di Toscana Aeroporti prevede di portare il numero di passeggeri a 4,5 milioni, quindi molto molto più di quelli che arrivano adesso a Firenze. È un progetto che di fatto costituisce la prima tessera di un puzzle di grande portata, che vede annessi anche la risistemazione della Mercafir nell'attuale area Unipol, che permetterebbe quindi lo spostamento o la costruzione della cittadella viola nell'attuale area occupata dalla Mercafir, quella del mercato ortofrutticolo di Noboli, e vedrebbe anche il sorgere di altri edifici, tra cui ostelli di lusso, alberghi, uffici e quant'altro. Si parla di enormi superfici che ci hanno fatto parlare più volte dell'ipotesi di una vera e propria Firenze 2 nell'attuale piana fiorentina, quella che si estende più o meno dal viale 11 agosto fino al casello di Firenze Nord. Questo è un po' quello che stiamo vedendo. Dall'altra parte, tanto per fare un passaggio molto breve, 25, come abbiamo detto, c'è stata questa assemblea che è stata anche la risposta anticipata a una riunione, assemblea pubblica, che avevamo chiamato come movimenti, come presidio non inceneritore in aeroporto, sempre nella zona di Peretola, per discutere insieme ad altri comitati italiani che da tempo si battono per il ridimensionamento del traffico e degli impianti aeroportuali. Abbiamo discusso sabato 27 con altri comitati italiani, più precisamente con il comitato del Villaggio degli Sposi, località intorno all'aeroporto di Orio al Serio di Bergamo, uno tra i principali aeroporti italiani, esattamente il terzo per dimensioni e traffico. C'è stato un intervento da parte di Napoli, del comitato No Fly Zone, contro l'aeroporto di Capodichino, che si configura più che come un aeroporto dentro la città, quasi, come loro dicono, come una città dentro l'aeroporto, proprio per le rotte aeree che attraversano la città in lungo e in largo, e per il numero di voli e per orari che sono veramente impressionanti e hanno un forte impatto sulla vita degli abitanti. Un altro importante, forse il più importante degli interventi, senza gerarchizzare nulla, ma per competenza, perché è un comitato da una lunghissima vita, perché da 13 anni il comitato di Ciampino, che è intervenuto all'assemblea, interviene per il ridimensionamento dell'aeroporto di Ciampino e contro l'ipotesi di espansione e allargamento dell'aeroporto di Fiumicino a Roma. Questo è un po' il tentativo che abbiamo fatto, cioè quello di collegarsi con altri comitati italiani, quello di guardare la situazione ragionando nella complessità, assolutamente contro il provincialismo e il campanilismo che fanno del tutto comodo alla controparte, perché vorrebbero anche fare un po' leva sull'orgoglio dei fiorentini contro Pisa. Siccome è stata messa in campo più volte l'ipotesi di allargare, aumentare il traffico aeroportuale a Pisa piuttosto che a Firenze, Nardella e i suoi hanno spesso fatto ricorso a questa categoria di orgoglio fiorentino, e anche Renzi, come se portare gli aerei o maggiore traffico aeroportuale a Pisa fosse un dispetto che si fa a Firenze anziché un dispetto che si fa a Pisa. Il traffico aeroportuale ovunque si sviluppa, e in questi anni si è sviluppato fortissimamente in gran parte d'Italia, porta con sé problematiche legate all'inquinamento acustico, all'inquinamento ambientale e, non ultime, anche alle nocività con le quali vengono a contatto i lavoratori dei piazzali e degli scarichi merci, che lavorano di fatto in aree industriali, ma che, a parte le cuffiette come dotazioni per la sicurezza, non vedono altrettante dotazioni per la sicurezza per quanto riguarda, per esempio, l'esposizione a particolato fine e ultrafine che esce dai motori degli aerei, che ovviamente sono alimentati a combustibili fossili e come tali, e per le dimensioni che hanno, sono apparecchiature e motori altamente inquinanti. Quindi diciamo la lotta sta andando avanti, nella cornice della campagna elettorale del Partito Democratico, che di fatto è passata anche attraverso Peretola con il contributo di questo comitato Viva la Pista, con campagna elettorale che ricordiamo intorno ai temi delle grandi opere vede un forte protagonista, una forte attivazione da parte del Partito Democratico Fiorentino, non ultimo, l'ultima proprio per chiudere, il passaggio che hanno avuto veramente la faccia tosta e il coraggio di fare di questo sit-in demenziale davanti alla stazione Foster o a quello che resta del progetto di stazione Foster da parte di Nardella, che lunedì si è recato proprio davanti al cantiere per questa piazzata mediatica per dire che i lavori devono ripartire e che la TAV a Firenze è importantissima. TAV a Firenze che proprio lui nell'estate del 2016, tra il giugno e il luglio del 2016, aveva ipotizzato di non completare i lavori perché questo progetto era stato imposto da Rete Ferroviaria Italiana però in realtà era un grosso dispendio di denaro pubblico. Questo era Nardella nel 2016. Nardella nell'autunno del 2018 invece dice che i lavori devono ripartire per forza, perché alla riapertura dei cantieri per la stazione alta velocità e per tutto il nodo alta velocità fiorentino attraverso la realizzazione di due tunnel fino a Campo di Marte è una necessità, e quindi non farlo sarebbe un ennesimo attacco a Firenze dal quale il governo giallo-verde deve tirare giù le mani. Noi tra il governo giallo-verde e il governo del Partito Democratico non sappiamo con quale sia meglio pulirsi il culo, e su questo vi saluto e ci sentiamo la prossima settimana. Ciao!